Passiamo ora alla relazione del padre Fumenzio Ghetta, che parlerà su curiosità varie dell'amministrazione di un peculio del vescovo Hindelbach. Il padre Ghetta è noto a tutti i cultori di cose trentine, delle quali è estremamente competente. Tutti conosciamo le sue abilità di diplomatista e di paleografo e anche la sua generosità nel aiutare le persone che si rivolgono al suo consiglio. Padre Ghetta si sta occupando dei registri del Principato Vescovile di Trento, ha pubblicato su Bernardino da Feltre. Qui entra in un discorso molto dettagliato e molto curioso che sentiremo tutti col massimo piacere. Grazie. Giovanni Hindelbach, amministratore e conteggiatore. Entriamo in casa sua e vediamo la sua attività quasi giornaliera. Durante i 20 anni del suo governo come vescovo e come principe, Giovanni Hindelbach ebbe occasione di occuparsi di amministrazione non solo dei beni e delle entrate del principato e della diocesi, come pure dell'amministrazione delle numerose giurisdizioni in cui era suddiviso il principato, ma dovette anche rivedere e correggere i libri di amministrazione di vari enti, fra i quali i libri delle entrate e uscite del Duomo di Trento. Ed è il primo documento che ho avuto in mano che mi ha fatto capire come tutti si rivolgevano a lui per aiuto a far conti. Il più antico volumetto dei conti chiese del Duomo di Trento, 1471-1475, giunto fino a noi, fu esaminato e corretto dall'Hindelbach. Infatti dovette rifare e correggere tutte le somme. È scritto in bella grafia gotica, con i numeri e le somme giuste, i numeri romani, però in fondo ogni annata c'è una bella cancellatura e con la mano dell'Hindelbach le nuove somme. Dobbiamo tenere presente che sia il detto libretto dei conti del Duomo di Trento, come pure tutti i libri di conti dell'Hindelbach, sono scritti in numeri romani. Scrivevano soltanto le date con numeri arabici. Dovevano trovare insormontabili difficoltà per fare i calcoli conoscendo soltanto i numeri romani. La vicenda di Simone da Trento e la presenza del suo corpicino nella sacrestia di San Pietro di Trento, a Trento, attirò un numero grandissimo di gente da ogni parte d'Europa, anche da paesi lontani. Tale afflusso continuò con le comprensibili punte in primavera e autunno e cali durante la cattiva stagione e la calura estiva. Ci fu però anche qualche sospensione causata dalla peste, ma il calo maggiore di tale afflusso fu causato dalla guerra del 1487 tra la Serenissima e il Tirolo. E Hindelbach ha preso in mano tutta questa amministrazione e l'ha portata avanti, dei denari, delle offerte fatte sulla tomba di Simone, l'ha portati avanti sempre lui personalmente e soltanto quando si allontanava da Trento lasciava in mano affidate persone che poi lui si premurava di controllare durante la nostra assenza e qualche volta c'è una piccola correzione. Si rimane sorpresi leggendo le note dell'Hindelbach a scoprire il grande concorso di gente venuta a Trento che si ricava dalle offerte fatte pochi giorni dopo la scoperta del corpo del bambino collocato nella sacrestia di San Pietro. Raccolta e l'amministrazione dei denari offerti dai fedeli nella chiesa di San Pietro fu voluta dall'Hindelbach stesso, che conservò sempre ben distinta tale amministrazione da quella sua personale e quella del castello. La quantità e la varietà del denaro offerto, sempre naturalmente in metallo, fu tale da formare un esempio e un punto di riferimento, più unico che raro, delle relazioni commerciali allora esistenti. I denari venivano prelevati dalla cassetta che si trovava nella sacrestia e poi nella chiesa di San Pietro, dagli appositi incaricati, collocati in sacchetti, sigillati di volta in volta col sigillo di un canonico, e portati in castello, consegnati all'Hindelbach. Questo avveniva ogni settimana, ogni 15 giorni, se le offerte erano abbastanza buone, se erano scarse, una volta al mese. Lindelbach stesso faceva la scelta del denaro e su quaderni ben precisi descriveva poi con grande precisione, secondo la qualità, in auro, in argento, in ere, oro, argento e rame, la grandezza, il prezzo secondo le zone, la descrizione dei metalli, dei pezzi usati, se avevano figure caratteristiche, e gli stati o staterelli di appartenenza. Non tralasciava poi di notare i pezzi falsi o antichi, come per esempio le monete romane. Non sono molte, ma ne troviamo diverse e lui le precisa, esempio di Adriano. Si rimane inoltre sorpresi osservando la grande varietà di stati e staterelli che sono rappresentati dalle offerte fatte nella chiesa di San Pietro a Trento al tempo dell'Lindelbach. Possiamo credere che lo stesso Lindelbach avrà trovato una certa curiosità e interesse nell'esaminare, elencare e descrivere il denaro di così svariata qualità e provenienza. È fin troppo noto come la scrittura dell'Lindelbach si sia fatta sempre più scabrosa col passare degli anni, forse andava scadendo di pari passo con la sua voce, come qualcuno aveva accennato. Quindi è con grande difficoltà che si possono leggere, soprattutto le numerose note marginali, di cui sono adornati i quaderni delle offerte fatte in San Pietro a Trento fra l'aprile del 1475 e il maggio del 1485, che si sono conservati più o meno in buono stato e qualche annata frammentari. Da tali quaderni ho ricavato alcuni dati che credo più interessanti e caratteristici per offrire a voi. La maggior parte di questi riguardano la ricostruzione e l'ampliamento della chiesa di San Pietro a Trento, lavoro che era stato iniziato un paio d'anni prima e che ricevette però un determinante impulso dalle grandi offerte dei fedeli giunti da ogni parte a Trento in quegli anni. Lindelbach stesso, giorno dopo giorno, visse e partecipò a detta costruzione, sia perché di solito pagava lui stesso il capomastro e gli operai specializzati, gli scappellini, annotando i lavori che si stavano eseguendo, sia perché nella fossa del castello, del Buon Consiglio, furono cavate le pietre per la costruzione della chiesa e del campanile. Dalla lettura di quei lunghi elenchi di monete e delle note aggiuntive e successive, possiamo fare alcune considerazioni. Prima di tutto emerge la pignoleria, l'esattezza nel trattare gli affari dell'Lindelbach, con puntualità, fedeltà in tutto, esattezza fino al decimo di millimetro, senza lasciare nulla che non sia chiaro e ben motivato. Sotto una precisa e rigorosa severità nei conteggi appare però al medesimo tempo la generosità e la larghezza, e lo poteva fare perché denaro ce n'era. Sia nel dare la paga settimanale o quindicenale all'operai, sia nel donare di frequente delle grosse mance, come chiama lui, probibalibus, per le bevute. Oltre alla consueta mercede agli operai, sia poi nel fare la carità a chi era nel bisogno. Come risulta da una lettera scritta di suo pugno e diretta a Pietro Conte Lodron, che aveva combinato una grossa marachella, scritta in volgare trentino, ne citiamo una sola frase, come titel sai, che soltanto uno conosce il trentino può scriverla, la tipa lui, Lindelbach conosceva e parlava il dialetto di Trento, forse pochi lo sanno. Dobbiamo quindi credere che lui scendeva di frequente fra la sua gente e che anche andava a osservare gli scalpellini che tagliavano la roccia nella fossa del castello sotto le sue finestre. Infatti lui stesso voleva dare la paga e la mancia, probibalibus, o per altri motivi, agli scalpellini e al tagliapietra. E scrive infatti, ipse met dedi, io stesso ho consegnato. Ed è interessante come alle volte mette le motivazioni quando dà una mancia o un qualche cosa di aggiunta, perché è molto tempo che non ci do la mancia, perché va a nozze nel tal luogo, come vedremo, o perché si sposa la figlia del scalpellino e non gli dà perché compri il vestito da nozze, o perché uno è ammalato che vada a curarsi, a fare il bagno a Comano, voluto e costruito da Linderbach, e ci sono le spese da lui fatte per la Badstube, non in questo naturalmente, perché sono conti gli altri libri. Anche questi documenti, quindi, benché apparentemente siano aridi, possono testimoniare i lati caratteristici della personalità dell'Linderbach, meglio forse di tanti altri documenti alti e ufficiali. Qui troviamo l'uomo. Purtroppo l'incendio che scoppiò il giorno della festa del titolare della chiesa di San Pietro, il 29 giugno 1624, se non vado errato, ho la memoria, distrusse tutti gli arredi nell'interno della stessa chiesa e provocò quindi il crollo delle volte e del tetto, causando la perdita di tutto un patrimonio artistico e culturale, incominciando da quello menzionato e descritto abbastanza minutamente nei conti scritti e annotati da Linderbach. E di questi farò un breve elenco per la delizia degli amatori dell'arte e della storia dell'arte e della nostra storia locale. Vi do lettura di una paginetta delle entrate offerte sulla tomba di Simone da Trento il 17 maggio 1480, come la scrive Linderbach. Cercherò di tradurre, che sono alle volte sono termini di paesi strani che non si riesce a capire dove si trovano, ma bisogna proprio tradurli, se no non si riesce a decifrare. Inizia sempre mette lui in auro, e quando non ce n'è, in auro nic. In auro unum florenum ungaricum, unum florentinum, punto, in moneta veneta, precisa sempre. Libre 31, in tanti troni e marcelli. Ancora, in soldini e marchetti 14 libre. Poi, in moneta di Merano, libre 22, grossi 8. Ancora, quattrini, in quattrini, libre 9 e grossi 5. Poi, in moneta di Milano, milanese, grossi 6, della Bisa. Chiaro, della Bisa. Così erano chiamati, si vede che qui a Trento li chiamavano perché avevano sul visione della Bisa. Ancora, un grosso papalino, papale, e due piccoli. Ancora, un grosso ferrarese, tre soldini antichi. Ancora, un grosso mantovano, uno piccolo e tre soldini. Ancora, due carlini, un fiorentino, un bavarico della Baviera, un grosso della vacca, ci sarà stata su una vacca, e cinque baiocchi, uno aquileiese di Aquileia, e in fondo una moneta del divo Adriano, non c'è dubbio, moneta imperiale. Il giorno 23 maggio, in questi tre giorni, dice, furono offerte a Simonino, in oro, ducati 3, 4 ungheresi, un fiorino renano, poi moneta veneta, d'argento, in marcelli, in troni, libre 174, capitale, in soldini e marchetti, libre 112, che fanno soldi 287, fa anche i conti, in monete di Milano, 3 grossi, pesanti, e 37 più piccoli con la Bisa. Poi 96 di rame, uno antico, non dici di che cosa, con Sant'Ambrogio. Ancora in moneta di Merano, marche 22, libre 6, in quattrini 53 libre, 3 grossi, 16 baiocchi, uno papalino largo, moderno, uno piccolo, un Paolo. Ancora ferraresi, 8 grossi, uno piccolo con un fiore. Ancora grossi mantovani, 8 soldini col sole, 3 antichi, un grosso fiorentino. Ancora in moneta della marca, delle marche, 11 grossi, maggiori e minori. Ancora 16 baiocchi. Ancora una aquileiese, 10 soldi, 2 grossi imperiali e 17 cruciferi, 16 grossi di Norimberga, ancora 14 grossi nuovi di Hall. Ecco la moneta nuova di Hall, la zecca nuova di Hall. Difatti lo dice il primo giorno, quando arriva la prima volta la moneta di Hall, dice, nota, ancora un mezzo grosso marcellino nuovo. Poi aggiunge in filo, filamenti, cioè in stoffe, in camiciole, fasoletti, lini, offerti e venduti, 10 libri, grossi 8, ancora in signis, beati simonis, venditis, vendevano statuette, figurine d'argento. E c'è la data precisa quando hanno incominciato a fare questo lavoro, c'è l'argentiere che viene incaricato di fare queste piccole figurine da mettere in vendita, anelli e... dunque 14 libri e 11 grossi. Questa è una paginetta di quello che sono le pagine dei libri di entrate scritte da Linderbach. Poi in margine troviamo a queste paginette dediti al tale. Dediti, e quello è difficilissimo da scoprire, leggere, perché non si sa bene e tante volte non si riesce a capire cosa intendere, perché sono note sue piccoline, piccoline, piccoline, ma sono le più preziose, perché da si capisce da chi, a chi ha pagato. Ora il problema è questo: questi soldi chi li amministrava? Come li custodivano? C'era pericolo che li portino via, ma c'era anche il pericolo, secondo credevano loro, che portassero via il bambino, il corpicino di Simone. E allora mette sempre i sorveglianti giorno e notte, e ce la paga. Ma questi poi che devono soprasedere e vigilare sulle offerte, di solito sono personalità abbastanza importanti, e non ricavato alcune di queste personalità che sono anche interessanti. Per esempio c'è un organista del Duomo, Vincenzo de Montfort, che è incaricato insieme a Ermanno Schludenberger ancora il 13 aprile 1475 di ricavare il denaro dalla cassa, poi naturalmente chiuderla, sigillarlo nei sacchetti e portarlo in 16 sacchetti a Linderbach. Nell'agosto del 76 sono deputati Giacomo De Ciprio e ancora l'Erasmo. Nel novembre 76 sono deputati il Pievano tedesco, Baldessare di Prussia e non di Perugia, come qualcuno ha scritto e pubblicato, era un prussiano, un tedesco di così, e Giovanni Ortwein, che poi sarà canonico, il quale avrà molto lavoro in questo compito qui, cappellano di Linderbach. Nei mesi successivi a portare i sacchetti sigillati contenenti denaro è l'Ortwein, accompagnato dall'organista Ermanno. Quando poi ritorna da Roma Guglielmo Rottaler, segretario di Linderbach, ha una scrittura molto bella, per questo mi è simpatico, che era pievano di mezzo corona. Allora dà in mano a lui questo compito, quasi come ricompensa per le fatiche fatte a Roma. E dice qui Linderbach, a un certo momento, che dà una mancia di 30-40 anni, probibalibus, al Ortwein, perché è molto tempo che non gli do niente. Nel 77 troviamo Giovanni Wieser, sarà l'autore della musica, e Giacomo organista. Così un quadro per capire come Linderbach si era molto premurato di mettere persone responsabili a portare le offerte dalla chiesa di San Pietro al castello, dove erano certamente al sicuro perché il castello era chiuso ed era vigilato da Lischitzen, come diceva il professore. Oltre alle offerte di denaro e anche di oggetti di tela e di lino, soprattutto di lino e di canapa, troviamo le offerte anche di candele, ma non soltanto le offerte piccole e spiccio della gente, ma anche offerte di grandi pievi, come facevano nel Duomo di Trento, anche a San Pietro. Il 27 giugno 1475 viene offerta in candele una somma grossissima, 79 marche, è un capitale. Il 30 giugno giungono dalla pieve di Rendena e portano offerte in cera, 15 Marche e 14 Libri. Il 25 luglio, dalla Pieve di Malé, portano un cerro del valore di 7 libre, di 7 marche. Poi vengono quelli della Pieve di Livo, di Arsio, di Castelfondo e di Cloz, portano ceri per 4 marche e grossi 25. La cera che veniva offerta, di solito, veniva amministrata dal capomastro, dall'imprenzario, diremo oggi, della chiesa, Giovanni Unger o Onger, che morirà verso il 1480, e sarà lui che poi vende la cera e le candele. Il 22 maggio 1477, uno di Ratisbona portò da Roma un cerro benedetto dal Papa per offrirlo a Simone. Ricevette in ricompensa 9 libbre e un anello d'argento con ametista. C'è il problema del bambino che si trova nella sacrestia. L'incorruttibilità. È un bambino con la carne piuttosto frolla perché è rimasto un paio di giorni in acqua e quindi la difficoltà per conservarlo sarà molto grande. Propuero conservando e custodiendo, ogni tanto troviamo notato da Linelbach, incomincia già il 2 aprile, il 27 aprile 1475 a spendere per questa conservazione e purificazione e dà a Erardo Speziale, farmacista, per spezie e per altre cose, per aromi, per conservare il bambino, un ducato e 16 soldi. Il 7 maggio 1475 il reverendo Giovanni da Firenze, per cose necessarie per il bambino, riceve marche 2 e libre 6. L'8 giugno del 75 per la cassa di piombo dati a Stamfer libre 14. L'8 giugno 75 a Giovanni Mattia, medico, per osservare e adattare il bambino, una marca. Il 4 ottobre per far la guardia al bambino innocente a Martino Rompilanze, grazie che guardia, una marca. Il 4 ottobre ancora per far la guardia, il 10 dicembre 75 a Giovanni Peverada, che fa una cassa di ferro per contenere e custodire il bambino, questa volta lo mettono al sicuro, marche 2. Il 28 marzo 1476 a Mistro Giovanni Mattia, vedete sopra, fisico, per purgare, si vede che qualche cosa c'era, e consolidare il corpo del bambino, una marca. Il 1 ottobre del 76 salario ai custodi diuturno e notturno tempore, chiaro, qui sì, giorno e notte. 8 marzo 1477 un certo Pincarolo dice che custodì il corpo del bambino per 16 settimane. Beh, non si sa se di lordo di notte, speriamo sia andato a dormire di notte. Ricevete dei pegni, attenti bene, di Samuele Ebreo, l'hanno pagato quei pegni per ordine di Debat, del valore di 8 marche. 28 agosto 1479 al prete Giovanni da Verona che curò il corpo del bambino. Ne putre face retur. 25 settembre 1479 dati al Giovanni Ortwein, capellano del Linderbach, 9 libre venete e 7 libre meranesi per lavori fatti nel comporre il corpo del bambino. Cosa intende dire per comporre? Forse l'avrà vestito, infatti ci sono spese per vestirlo, metterci un vestitino di seta comperata a Venezia, ci hanno messo al collo una moneta con San Giorgio, una moneta dell'Inghilterra con San Giorgio d'oro, e qui non ricordo perché sarebbe troppo lunga. E adesso passo invece a qualche cosa di più solido, anche se queste notizie non sono vane, non sono, diciamo, da dimenticare, perché sono tutti piccoli tasselli che ci aiutano a capire cosa avveniva attorno a quel bambino. Lavori di costruzione della chiesa di San Pietro, come si ricavano dai questi conti entrate e uscite. Il 23 aprile 1475 si comincia già a dare 5 libre ad Angelo da Picida per cavare le pietre in Val di Fiemme per il sepolcro del monumento da finire. Non dice altro, non si sa cosa intende dire di questo sepolcro, era un uomo o era San Pietro. Interessante capire che è andato in Val di Fiemme a portare giù i sassi, ce n'erano anche a Trento. 28 aprile 1475 a Giovanni Unger, capomastro della fabbrica di San Pietro, date 6 marche per pagare i lapicidi, lavoratori, calci, mattoni per la costruzione del presbiterio. Si parla già del presbiterio. 7 maggio 1475. Comperate e pagate 153 pietre lavorate per il presbiterio, libre 31. A Pentecoste, per gli operai, marche 16. Il 3 giugno, marche 16. Quindi qui ci si comincia già a pagare un bel numero di lavoratori e quindi il lavoro deve essere iniziato in maniera determinata. 8 giugno 75, a Mastro Michele che deve fare il tetto del presbiterio. Siamo già al tetto. Marche 4, poi per tegole del tetto prese a Bolzano, marche 10. 2 agosto 1475, per 6.000 tegole comperate a Bolzano, marche 6. 19 novembre 1975, a Mastro Pietro e compagni per aver terminato il presbiterio. Dati probibalibus, la gran zega, diciamo noi nel Trentino, alla fine di un lavoro, libre 1. 3 dicembre 1975, per tela, per coprire le finestre e chiudere le finestre di San Pietro, libre 2, infatti avrà lavorato lì dentro al freddo. 3 dicembre 75 a Giovanni Battista Tagliapietre per 5 crestes per l'erezione delle colonne della chiesa, già si progetta la navata. 28 marzo 76 fatto il tabernacolo per il corpo di Cristo, probabilmente a muro, non lo dice però, in San Pietro, da Mastro Pietro, marche 3, ricevete poi 6 staglie di grano e 11 brente di vino. 28 maggio 76, Michele, vetraio, prepara le vetrate di San Pietro e riceve il piombo che proviene da Sterzinga, di Piteno, 200 libre, 100 kg circa, marche 2, libre 4. 20 ottobre 76, comperati i vetri colorati di Boemia, alla fiera di Bolzano, marche 4. 8 marzo 66, fatti i conti con quelli di Pinè per la condotta da Pinè del legname per il tetto della chiesa, ebbero marche 3. 8 marzo 77, Italia Pietre Erasmo ha preparato 200, dice 300 pietre meno 2, per noi è più facile scrivere 298, ma con i numeri romani deve andare a riga così, allora metteva 300 meno 3. 298 pietre, ebbe marche 2. 8 marzo 77, per un centenaro, vuol dire 100 libri di piombo, per legare i vetri delle finestre, libri 12. 18 marzo 77, a Mastro Michele che lavora le vetrate, poi a Erasmo che prepara le pietre quadrate per il pavimento del presbiterio. 18 marzo 77, facciamo già il pavimento. Settembre 77, comperati alla fiera di Bolzano il turibolo e la navicella per la chiesa di San Pietro da Linderbach, quindi si preparava per tempo per fare poi le sue funzioni. Nel 31 maggio 77 si preparano i balaustri, il tabernacolo per completarlo, marche 4. Il 7 giugno 77 al pittore Giorgio per la pittura del tabernacolo, libre 8. 28 giugno 77 per totale pagamento del tabernacolo, marche 4, questo è a posto. E infine ci è assegnato che si compra una grande croce, penso un crocifisso, per la chiesa di San Pietro, Fiorini, Renani, 3. Italia e Pietro cominciano a lavorare anche l'inverno, infatti trovo che vengono pagati l'inverno, erano chiusi dentro, potevano lavorare. Il 21 giugno 1478, Sigismondo Saracino e Michele Carpentieri mettono le travi del tetto, libre 44. Nel maggio del 79 viene condotto il legname per fare le volte della chiesa, da Egna e da Pinè, marche 4. 14 ottobre 79 si dà inizio a costruire il campanile. Il 20 giugno 1480, per unius spere in Santo Petro de novo facte, ante oculum rotundum, marche 8, quindi l'occhio, il rosone sopra la porta maggiore. Nel 1480 non compare più il capomastro, magister fabrice Giovanni Unger, al suo posto c'è Pietro Steinmetz, Pietro Tagliapietre. 4 giugno 480 si conducono le travi per fare il tetto dell'atrio di San Pietro. Si prepara un atrio. E vedremo come. Gli operai venivano pagati alla fine ogni settimana. 10 luglio 1480 per una continua lapidis, l'acqua sentiera, da collocarsi nell'atrio di San Pietro, grossi 6. Durante il 1480 delle pietre Rasmo e Valentino lavorano a cavare e preparare grosse pietre per il campanile. 20 luglio 1480 Erasmo ha preparato 70 paia di grosse pietre, strano, vendere i sassi a paia. Curiosità, per il campanile, Marche 4, 28 ottobre 1480 è sempre Pietro Labecida, maestro di fabbrica, che riceve due marche. Il 18 novembre 1480 Michele Carpentiere per il insieme col compagno comprano per coprire i muri della chiesa del campanile. Si vede che sospendevano i lavori. Hanno ricevuto 8 libre e grossi 2. In novembre dell'80 troviamo un Lodovico soprastante alla fabbrica al posto di Pietro. Così pure l'81 è detto Lodovico che dà la paga ai lavoratori, incominciando già dal gennaio. Negli anni 81-82 vengono specificati i lavori eseguiti. Non vengono specificati. Soltanto si dice dati a Lodovico per gli operai e basta. Quindi non si sa che lavori hanno fatto. Nel marzo dell'83 Michele Carpentiere prepara il pavimento del campanile sopra le finestre. Quindi chiaro che il campanile è terminato e si prepara poi il tetto del campanile. Quindi marzo 83. Il 28 ottobre 83 il fabbro Wolfango prepara le spranghe per la porta della chiesa di San Pietro. Sono tutti termini che ci aiutano a vedere il progresso del lavoro. Ancora nell'83 l'organaro Valdesare costruisce il nuovo organo. Nel novembre si reca a Bolzano per comprare il materiale. La chiesa e il campanile non furono costruiti solo con pietre, ma anche con mattoni. Leonardo Comai per trasportare miari 11 dei quadrelli condotti dalla Fornas dietro l'Ostrento alla ditta Liesia, carri 44, ebbe libre 14 e grossi 18. Davanti alla porta di San Pietro fu innalzato un atrio con su due colonne, cioè un pronao. Ci sono le spese per fare queste due colonne, per fare gli archetti e per fare tutta la volta. I materiali dove li prendevano? Abbiamo visto che prendevano legname in Valle di Pinè, Piano di Pinè e nella zona di Enna, condotto da un nuovo ponente. Le pietre migliori furono cavate nella fossa del castello e la calce proveniva in maggior parte da Sopramonte e da Terlago. Infatti la vigilia di Pentecoste i contadini di Sopramonte conducono 24 vene di calce grossi 24 l'una, che fanno Marche 6. Nell'aprile del 77 viene fatto il contratto con Paolo del Pever e Aldighetto, suo figlio, di Terlago, perché facciano una fornace di calci, ricevono libre 12. 27 febbraio 79, dati Antonio Cavatore di pietre nella fossa del castello, retro castrum, per tagliare e preparare le pietre, per fare il portico, ante porticum, sopra due colonne grandi da costruirsi all'ingresso della porta principale, Fiorini Renani 1. Nel febbraio del 79, date a Cipriano da Vicenza, famulo del detto angelo, per lavorare le pietre che dovevano formare l'arco per collocare sopra le colonne, libre 5. Nel marzo del 79, allo stesso Antonio, per cavare pietre larghe e lunghe necessarie per rafforzare le fondamenta della casa di Samuele, corrose dalla roggia, perché scorreva nella cantina, marca 1. Marzo 79, fatta l'armatura per sostenere il pronao e l'arco su roggia, sulle colonne, davanti alla porta della chiesa di San Pietro, date marche 5. Luglio 80, cavate pietre sul Kalisberg. Da un'altra parte mette anche Monte della Vacca. Non si sa se è andato al di là, a Montevacino o al di qua. Si è recato Erasmo, Labecida, ha ricevuto 12 libere, lavorato abbastanza, si è trattato pietra bianca. 28 agosto 80, dati a Nicolò Zibichino per 8 lame di ferro per le testudini, cioè le volte della chiesa, le arcate della chiesa di San Pietro, fiorini 8 in oro. E il fabbro Giovanni Bon preparò su misura tutte le chiavi necessarie per legare le navate della chiesa. Nel novembre dell'81 furono comperate 3.750 tegole dal Zibichino. In giugno ne avevano già comperate 9.000, e poi calce, eccetera. Quindi qui abbiamo, molto succintamente, anche se è un elenco così arido e senza succo, i dati esatti delle chiese di San Pietro, che non si sapeva con esattezza. Bisognerebbe aggiungere qualche cosa, ma diventava lungo un chilometro. Nel medesimo tempo che si costruiva la chiesa di San Pietro, si preparò anche la cappella nella casa di Samuele, iniziando nel 77. Hanno fatto un soffitto di legna con legname portato da Pineda, un certo Cristano, il quale riceve 5 libbre, e sul soffitto viene dipinto il monogramma del nome di Gesù dai pittori Valerio e Bartolomeo Sacchetto. È la prima volta che compare in questi conti il nome di Bartolomeo Sacchetto. Nel 78 ci sono le spese per comprare i colori, l'azzurro, scritto l'azzurro, i fori d'oro. E poi una curiosità: il 23 maggio 1478, all'ingresso di questa cappella, fu collocato un ceppo per le offerte, e furono già raccolte e si spesero 9 libbre. Questo ceppo fu aperto la prima volta il 18 luglio 1478. E ricavarono 7 libbre che furono date in pagamento al pittore Sacchetto di Brescia. Riceve poi diversi pagamenti questo pittore a varie epoche, e il 26 dicembre 1478 vengono dati al vescovo suffraganeo per la consacrazione di due pietre portatili, pietre sacre, una per San Pietro e una per appunto la cappella sopradetta, Probibadibus, come mangia, un fiorino, segno che aveva già preparato l'altare. Il 26 dicembre 78 furono levate dal ceppo altre offerte, libre 3, grossi 9, e finalmente viene pagato il pittore Sacchetto, perché il 23 gennaio 79, perché ha introdotto, pro introduzione, nelle pitture fatte in quella cappella, la Giustina Neofita. Già che parliamo di neofiti, vi devo accennare a quel poco che ho trovato di notizie su questi neofiti. Sono quei bambini e quelle donne che hanno battezzato in San Pietro, spese per prepararle per ricevere il battesimo e la cresima, cioè nel gennaio del 67 comperato tela di lino per fare una specie di copricapo per il battesimo e la cresima dei neofiti, libre 4, grossi 2, e per confezionarle hanno speso libre 3. Il 7 giugno, il 25 marzo 78, vengono dati a Baldessare da Augusta, che è colui che poi preparerà le vetrate di San Pietro, una marca per affidare a lui Giovanni Neofita affinché lo conduca da Augusta presso un maestro tessitore per alcuni anni. Infine, 9 maggio 78, dati al neofita di Padova, che portò una lettera di Fra Michele Carcano, per il viaggio un ducato. Pittori. Non sono molti le notizie che troviamo, e alle volte piuttosto scarne, cioè non nomina neppure, non c'è più il nome del pittore, quindi stiamo insoddisfatti. Infatti la prima volta che nomina un pittore di Bressanone non dice il nome. Per fortuna poi una pagina successiva lo nomina, e allora sappiamo che è Giovanni Packer. La nuova chiesa di San Pietro a Trento fu costruita negli anni 75-82. Naturalmente gli altari e gli ornamenti furono fatti più tardi. Tuttavia, fra le spese segnate da Lindelbach troviamo anche il nome di alcuni pittori per preparare le tele per gli altari, o le tavole, come si diceva. Primo giugno 75 è nominato uno di Bressanone, come ripeto, è Giovanni Packer, per un quadro con due figure, con la raffigurazione del bambino e dei giudei, Marche 6, non dice altro. Poi sotto, una pagina oltre, torna ancora da capo e dice 23 settembre 75, a Giovanni Pac di Bressanone come supplemento del quadro, col martirio dell'innocente bambino, di San Vigilio e con altre figure e angeli. Ebbe da noi 9 marche e da Ermanno, organista, 23 libre. 16 agosto 75, a Pietro Pittore, per un quadro della passione del Beato Simone. È la prima volta che lo chiama Beato così, questi conti. Me l'ho voluto annotare. 14 settembre 1475, per una immagine grande, Fiorini 15, e una candela, Fiorini 1, mandati al conte di Gorizia, dati al messo Lorenzo per portarli a Innsbruck, libre 4. Lo chiama sempre conte di Gorizia, mai conte del Tirolo. Sigismondo. Probabilmente chi ha dipinto il quadro è stato, siccome la data è uguale, 14 settembre 1975, a Pietro Pittore per dipingere un quadro, una marca. Chi è? Ci sarà ancora il quadro? 14 settembre 1975, fate venire due casse di vetri di Boemia, marche 2, per il pittore Michele di Augusta, che deve fare le vetrate nel presbiterio di San Pietro. 8 gennaio 76, a Pietro Pittore di Spira, nuovamente il medesimo di sopra, per un quadro con la deposizione dalla croce per un altare da farsi in chiesa, marche 2. Settembre 77, a Michele Pittore, che ha dipinto su vetro figure e stemmi, Fiorini 20. Gennaio 77, a un pittore di Bressanone, per un quadro del Simonino, qua grossi 15, pagati a Pasqua, 2 marche. Settembre 77, fatto contratto col pittore e vetraio di Baldessare di Augusta, da Augusta, per dipingere sulle vetrate del presbiterio di San Pietro, gli apostoli Pietro e Paolo, il Beato Simone. Il prezzo sarà di 15 fiorini la vetrata. L'Interbach si assume di pagare la vetrata di Simone con i propri denari, purché ci sia il suo stemma. Come dicevo, non c'è più perché l'incendio ha mandato tutto a farsi benedire. 25 marzo 1478, Baldessare Vitriator riceve fiorini 45 per il lavoro eseguito e 2 fiorini di mancia probibalibus. Deve bere nel vino con 2 fiorini. Ai suoi aiuti però darà probibalibus un fiorino e 5 libre. Ancora pittori. Marzo 78, Bartolomeo Sacchetto riceve 2 ducati in oro puro per il lavoro della cappella soprascritta. Al pittore Valerio, che aiuta il Sacchetto a dipingere il monogramma di Gesù, libre 4. Poi comprano colori per Sacchetto. Poi ancora Bartolomeo Sacchetto per dipingere la storia del Beato Simone nella cappella. Dove sarà questa? E in questa storia poi aggiungerà la figura, come abbiamo ascoltato, della neofita. 28 marzo 78, date a Sacchetto per le pitture, un supra, libre 5. Continua tutto l'anno, il maggio, giugno, a lavorare per queste pitture. E finalmente qui l'Interbach compra un messale dal Baldessare di Augusta per 8 marche e poi aggiunge altri 12 fiorini, un messale per la cappella. L'Interbach dà ordine il 4 febbraio del 79 al massaro delle giudicarie, Nicolò Bonadoman, che conosciamo molto bene dai conti, di pagare un debito che il pittore Sacchetto ha verso un giudicariese per grano a lui venduto, cioè pagare 20 libre, prelevandolo, il denaro, dai nostri redditi di Cinderbach. Il Sacchetto poi salverà il debito col lavoro. 13 febbraio 79, fatti i conti col pittore Sacchetto, che abitava nella casa di Samuele, per la dipintura della cappella, ha ricevuto 20 marche, come abbiamo notato nel nostro registro manuale personale. Dunque aveva un bel registro suo proprio, quello sarebbe importante. Datogli poi ancora un ducato perché sosteneva che ci fu un errore di calcolo. Non è stato lì tanto a questionare, ha dato un ducato, che non è poco. 12 agosto 80, dati a Giovanni Orefice un ducato milanese per dorare una croce d'argento lunga un braccio, larga 4 once e mezza, donata da un orefice, non sa se di Sterzinga, di Piteno o di Brunecco. 1 settembre 81, dati a Vincenzo Pittore, 2 fiorini da nani per il quadro da collocarsi sopra l'altare di Santa Croce e degli innocenti. 18 ottobre 83, al pittore Valerio per la pittura della parte superiore del campanile, segno che era completo il campanile. Libro 6, che cosa avranno dipinto? Gli stemmi, come si usava allora. Nell'ottobre 84, a Mastro Vittore, orefice di Mantova, interessante, Marche 5, per iniziare il lavoro di formare un'urna d'argento per il corpo del bambino, secondo la forma e il disegno dati. Per fiorini, 3 la marca, come dal contratto. Gli consegnarono marche 42 d'argento grezzo, che poi purgato fu ridotto a marche 30 e onze una di argento. Dicembre 84, il pittore, qui faci tabulam beati simonis, chi è? Marche 30, mica poco, era un grosso lavoro. Avete mai immaginato che Lindelbach si faceva anche investimenti in miniere? Il titolo è Miniera d'argento. Lindelbach investì una parte del denaro offerto nella chiesa di San Pietro in una miniera di piombo argentifero a Pergine, entrò cioè in società con la nona parte, come si trova poi ogni tanto segnato. Nel febbraio del 76, dati al minatore di Pergine per la parte del Beato Simone, libre 5 grossi 7, allo scopritore della miniera d'argento per la nostra parte, libre 6 grossi 5. Maggio 76, ai minatori di Pergine che cavano la miniera per la parte del Beato Simone e idem oblata, avranno offerta, dato il nome a Simone, miniera di Simone, lo sappiamo, libre 6. 12 giugno 76, per i minatori che cavano la miniera, per legname, per ferre, per spese, libre 6. Agosto 76, per i minatori di Pergine, pro parte Beati Simonis, libre 3. Poi, nell'autunno del 76, manda Leonardo a fare i conti coi minatori della miniera, pro nona parte Beati Simonis, libre 3. Il 20 ottobre 76, dati al minatore della miniera di Pergine, secondo i conti fatti dal Berg Richter, giudice minerario, libre 5, grossi 2. Novembre 76, ai minatori di Pergine, libre 6. Gennaio 77, ai minatori di Pergine, libre 6. 30 aprile 77, ai minatori di Pergine, spese fatte, libre 20, basta. Non trovo più nessun accenno. Ora, dovevo accennare prima a un altro elemento d'arte. I ricamatori di seta. Fra gli ornamenti liturgici più accurati del tempo di Lindelbach, troviamo sicuramente le pianete, le quali erano adornate sulla schiena con una grande croce larga circa 15 centimetri e su davanti con una striscia larga altrettanto, ornata di figure a ricamo. E questi ricamatori erano molto ricercati e pagati anche abbastanza bene. Ricamavano in seta ed erano pertanto molto ricercati e ben pagati. E di questi pagamenti ne esistono ancora ed è interessante trovare qualche nome. Qui parla di un ricamatore Giovanni da Salisburgo che preparò una croce e una striscia per una pianeta e ricevette 4 fiorini il 1 febbraio 478 e dice che Pievani di San Pietro gli diedero il vitto a questo tale. Deve però ancora fare una lista anteriore e Lindelbach gli dà in dono un anello per la moglie. Nel maggio 78 viene pagato a questo Giovanni, che qui ha chiamato Geldfuss, ricamatore, per il lavoro fatto 4 fiorini. Nell'agosto del 79 il medesimo Giovanni ha preparato una lista fatta per una casula e per un'altra lista dice per una mitria che porta la figura di San Vigilio. Chi sarà? Ducati 12. Ottobre 79, presso l'oste Gabriele di Trento, era morto lo scorso anno, dice Lindelbach, un ricamatore delle Friandre, dove abitò più di un mese. Lindelbach diede alla vedova dell'oste libre 15 per i lavori fatti da detto ricamatore per la chiesa di San Pietro, un paramento cioè da messa. Ci sarebbe da accennare al problema degli amanuensi e degli scrivani, che interessa non soltanto gli studiosi della storia dell'arte, ma anche i bibliotecari. Penso che non siano grandi amanuensi particolari, ma sappiamo che Lindelbach si cercava di avere dei bravi scrittori, anche per lui la sua scrittura non poteva mandarla via, se no nessuno capiva niente. scrivani e amanuensi. 12 luglio 1478 troviamo che vengono pagati a Giovanni de Brabantia, scrittore dei processi dei giudei, dei miracoli e delle nostre lettere nella causa di Beato Simone, che fu qui 2 anni, 10 fiorini in moneta burgundica e renense. Gli abbiamo dato molti denari ogni mese, dei nostri, e vestiti e scarpe, non comportati, come appare, ex registris nostris, come dai nostri registri, che non ci sono. Nel febbraio 77 date a Giovanni Scrivano, che trascrisse i documenti dei neofiti. Gennaio 77 a Giovanni di Fiandra, scrittore dei miracoli, eccetera, dati libre 4. Dicembre 78 a uno scrittore che ha trascritto i processi teutonici, poi dati a Fra Erardo per correggere e continuare e scrivere i processi dei giudei, settembre 79, dati ancora a Fra Erardo per le fatiche fatte in imbreviatura, processum, judeorum e descrizione, passionis, beati simonis, in latino ed vulgari, 3 fiorini. Abbiamo accennato prima che Lindenbach ha comperato un messale dal Valdesare di Augusta. Non dice però se era in pergamena o se era cartaceo, né a stampa né, ed è 78, poteva essere anche a stampa, secondo la rubrica romana, e dice che le diede 6 marche d'argento. Un accenno ai cantori, all'organista e ai predicatori. Fra le spese troviamo il frequente, ogni 15-20 giorni, notato quello che lui dava di ricompensa per le funzioni solenni che facevano in San Pietro. Canto, suono, preghiere, sono nominati 2 pievani, quello tedesco e quello italiano, i cantori, l'organista, il predicatore, il maestro o rettore della scuola, la scuola della cattedrale. E troviamo notato, alle volte in maniera succinta, alle volte personalmente, quanto veniva dato a ciascuno per il loro servizio, il loro ministero. Nonostante che la Chiesa fosse disturbata dai lavori, tuttavia, pensiamo alla vecchia Chiesa, si continuò a celebrare solennemente la liturgia nella Chiesa di San Pietro. Non abbiamo notizie di quando questa fu demolita. Anzi, lui faceva venire anche predicatori da fuori, tedeschi e italiani, che poi troviamo che lui dice ha pagato e a Bivit se ne andò. È interessante notare come Lindenbach doveva spedire molti denari a Roma per le cause e i processi. Di chi si serviva? Dei banchieri, certo. Sostenne grosse spese e andarono soprattutto attraverso i banchieri di Verona. E sono già nominati i banchieri il 9 settembre 1477 e li mandò a Roma il Guglielmo Rottaler, il suo segretario e cappellano, 60 ducati per mezzo del banchiere di Verona Abramo de Costanzo. 27 gennaio 78 altri 50 ducati per mezzo del banchiere Costanzo de Magnano e figli Abramo e Ambrogio di Verona. Febbraio 78 spediti 30 ducati a Magnano de Costanzo di Verona per essere spediti a Roma. Aprile 78 spediti ad Ambrogio figlio del fu Costanzo, ecco qui Costanzo è morto, da Verona, ducati 55. Febbraio 79, pagati a Benassuto de Boso, da Verona, ducati 22, per il restante dei 86 ducati. 23 marzo 79, dati a Leonardo Fugger, che conosciamo, 27 ducati veneti in oro, da consegnare a Venezia a Hirst Vogel, a nome di Melchiore de Meccau, poi vescovo di Persanone cardinale, morto a Roma, per il debito contratto con lui a Roma dal Rottale e della Provino che vissero nella sua casa. 4 ottobre 79, dati ad Abramo de Costanzo, cittadino di Verona, 34 ducati. Ancora giunge da Roma il Melchiore von Meccau il 12 luglio 78 e qui lo paga delle spese che ha dovuto sostenere per mantenere la Provino, il servo e il cavallo per molte settimane a Roma. 16 gennaio 79, pagati ancora al Meccau 28 ducati. Luglio 78, dati a Tommaso da Molveno, le offerte raccolte durante il mese di luglio, che li consegnerà a Ambrogio e Abramo, banchieri di Verona, da spedire a Roma a Rottaler che aspetta denaro. 22 febbraio 77, per mezzo banchiere di Verona, Francesco de Mandulis, un altro, mandati a Roma 100 ducati. 8 aprile 77, mandati a Roma altri 100 ducati, sempre per mezzo di banchieri. 20 settembre 80, date al banchiere Abramo de Costanzo da Verona 80 ducati per spedirli a Roma al rotale. Sono dati asciutti e brulli, ma che ci mettono nella possibilità di stabilire che c'era il contatto diretto fra Lindenbach e i banchieri ebrei di Verona. Non ci sono discussioni. Fra le notizie interessanti, che sono quelle forse un pochino più allegre, troviamo gli ospiti di riguardo di passaggio a Trento. Fra questi il duca di Baviera, che fu qui a Trento il 5 marzo dell'80. Poi venne due volte il giudice delle cause degli ebrei, Giovanni Asale, da Brescia. Il 7 maggio dell'80 lui rimase qui poco tempo perché pagò la sua permanenza di due giorni. Il 30 maggio dell'80 giunse a Trento il cardinale di Ostia, cardinale ostiense, che si trovava nell'osteria Alpese e era malato, dice qui, egrotante, infermo, egrotante e votivo. Aveva fatto voto che se guarisse prometti di dare Maria Monti 160 fiorini per costruire l'altare maggiore della chiesa di San Pietro e prometti una tabula ex vitro, una finestra, assieme ai paramenti e a un calice. Paga per lui, presso l'oste, 11 marche. Egli dice era senza quattrini, squattrinato. Dicembre 84, era morto un certo conte di Lentinara e fu sepolto in San Pietro, davanti all'altare dei santi innocenti, commessi, uffici, eccetera, eccetera. 15 maggio 84 si fanno a Trento le esequie del cardinale di Ravenna, fatti in cattedrale e in San Pietro. E quando moriva qualche persona si fa la carità ai poveri, dei morti, in pane e vino, una marca, poi l'elemosina in quattrini, 3 libbre. E poi c'è la spesa per comprare la tela per fare durante il funerale lo stemma del cardinale da mettere sopra la bara, libre 7. Poi da 3 libbre a Fra Enrico di Sassonia perché celebri le messe di San Gregorio per il cardinale. Durante l'ottobre del 79 furono a Trento due cardinali quasi contemporaneamente, Fra Michele, Ordinis Fratrum Minorum, e il cardinale di Monte Regale, legati in Germania. E Lindenbach paga per loro le spese di 3 giorni e 3 notti presso l'oste, 6 marche. Nel dicembre del 69, ancora paga, quando ritorna il cardinale Monteregale, 6 marche delle spese fatte presso l'osteria. E qui accenna ancora Lindenbach di spese fatte nel 69 per un servo del cardinale, che li aveva posti un po' qua e là, all'osteria La Rosa, all'osteria Alpese e all'osteria L'Aquila, e rimase qui un mese un servo ammalato e Lindenbach pagò tutte le spese che aveva fatto questo qui. Nel maggio 78 arriva a Trento la prima volta, che è la seconda volta è arrivato nell'80, io su notizie che ho trovato dopo, viene a Trento Giovanni Asale con i suoi parenti e pernotta e pranza presso l'oste Melchiore Ricci. Lindenbach paga un fiorino per la sua permanenza a Trento. Ora qualcuno mi ha chiesto quali notizie ho di quei poeti e di quegli scrittori che hanno mandato a Lindenbach per celebrare Simonino, eccetera, eccetera. Una precisa ed esatta è questa. Ubertino da Brescia dice che il 27 febbraio 1479 furono dati 2 fiorini Magistro Ubertino de Brixia, pro quodam opere composito, oblato e porretto per eundem, dunque l'ha portato direttamente, in carmine de martirio beati Simonis, multum egregio, dues florenus venenses pro expensis veniendi et redeundi, e inoltre paga le spese fatte per 3 giorni di permanenza presso l'oste Ferioldo, e poi gli dà pro aliquali gratitudine un anello d'oro del valore di un ducato da portare alla signora. Poi aggiunge che il 7 gennaio dell'80 misimus illi poeti brissiano quiedit libellum de passione beati Simonis cum miraculis pro miniatura e prigatura ducatos venetos quatuor in auro. per Petrum Marsarium Brissiense, qui abet stationem in domo Finoti, cum pace nostra et alis rebus pro donazione suprascritti. E il medesimo è un altro, non lo so. Poi il 21 luglio 81 dice che ha mandato a un certo poeta di Brescia un Agnus Dei perché gli compose un libretto col martirio del Beato Simone. Altre notizie di compositori di poesie non ho trovato e ho sfogliato tutto quanto il lavoro. Un accenno all'organo di San Pietro. Mentre si costruiva la chiesa, iniziando il 22 dicembre 82, Mastro Organaro incominciò a preparare l'organo. Si chiama Mastro Baldessare, che viene dalla Germania con un figlio. Credo sia di nome Wolfango il figlio, perché ogni tanto dice che ha pagato a Wolfango per il padre. Non sarà il figlio o uno dei che lavoravano con lui, ma nomina che ha con sé un figlio. E rimane qui fino all'84, 85 anzi, e riceve come paga totale, viene a costare l'organo 150 fiorini del Reno e 9 grossi. Quindi non è che sia per noi almeno molto caro questo organo, perché pensiamo che secolo successivo venivano sui 300-400 fiorini un organo. E l'hanno ornato molto bene, perché si parla, e non me lo leggo, di spese fatte con foglia d'oro, con colore speciale, ci sono i nomi dei pittori che hanno adornato, probabilmente erano anche ornate le portelle, ma non dice che ha fatto le figure il pittore, dice soltanto che ha adornato l'organo. C'è un'interessante curiosità. Ogni tanto Linderbach nei suoi conti mette mutuavimus, ci siamo imprestati, cioè abbiamo covato fuori ad imprestito e poi dice abbiamo rifuso. Di cosa li cavava? Molte volte erano monete spicciole per fare la carità. Ma un sacchetto, un bel sacchetto, di quattrini. E soprattutto quando andava in Duomo per le celebrazioni solenni, per la sacra Santi Vigili, che non è la festa di San Vigilio, è la consacrazione, perché la vera sacra è il giorno di consacrazione, se non sbaglio il 10 novembre. Qui dice il 10 qua, 8. Forse si legge male, 18. E dice sacra, pro sacra, santi vigili, e ho preso, dice, mutuavimus, tot libre in quattrini per fare la carità. Dunque, prende di questi libri, da questa sua, diciamo, banca, possiamo chiamare, del denaro che poi rifonde in seguito, perché magari non aveva denaro dei suoi. Nel 76 preleva 52 libri per mandare a Venezia a comprare cose di suo interesse, un certo Stefano Detai, merciaio, e lo manda più volte a fare queste spese. Era un suo fiduciario, comprare, non so, se non dice niente, dice soltanto per comprare, si capisce che ha comprato abbastanza perché ci sono i denari. Poi aggiunge, 79, mutuavimus libre vigintiopto, per pagare i castrati della Higenthal. Doveva pensare anche lui a mantenere la gente del castello, aveva dentro la cinquantina di persone e il macellaio e la cucina, bisognava tenerla, ma si accontentavano di castrato oggi. E giunge ancora quello che lui ricavava per mandare di qua e di là, per prestare queste varie, diciamo, questi prestiti che faceva. Curiosità. Due accenni solo. Ha trovato davanti a San Pietro un bambino e lui dice lo abbiamo affidato a una baglia perché ce lo allievi e gli ho dato un fiorino. Poi lo affida alla custodia dell'ospedale Alemanno che aveva anche questo incarico. E quando trovavano un bambino davanti a San Pietro lo chiamavano in tedesco il Findelkind, ma anche Pietrinus. I documenti tedeschi di questo ospedale portano sempre Fir ein Pietrinus o Petrinus. Invece i tedeschi trentini mettono per una bastardella. Grazie padre per questa enorme quantità di notizie che non ha bisogno di commento e che illustra tanti aspetti della vita trentina dei tempi di Hindelberg e soprattutto la storia della costruzione di San Pietro. Io penso che sia arrivato il momento di una meritata pausa e penso che la pausa sia, come al solito, di un quarto d'ora.